Oggi il modernismo, del novecentismo, rinnovando tutto va. E l'usanze antiche e semplici son ricordi che spariscono. E tu, Roma mia, senza nostalgia, segui la modernità. Fai la progressista, l'universalista, dici ok e lo, thank you, iaia. Vecchia Roma, sotto la luna non canti più, gli stornelli e le serenate di gioventù. Per progresso l'ha fatta grande questa città, non è quella ando se viveva tant'anni fa. Più man vanno gli innamorati per lungo tevere, a rubarsi li baci a mille la sotto gli alberi. E li sogni sognati all'ombra di un cielo blu. Sono ricordi del tempo bello che non c'è più. Li baci a mille la sotto gli alberi. Sono sogni sognati all'ombra di un cielo blu. Sono ricordi del tempo bello che non c'è.